cercarmi. Tu non hai capito niente. Stai lì ad aspettare. Devo sempre essere io la prima a chiedere. Capirai quando un giorno mi sarò stancata di te che.